shall unite two nations as one. It's time for the ultimate hardcore. This is the future. Do you understand? Sounds of the Rotterdam. We're gonna wind it up now. Say what? Say what? Say what? Give me a baseline. Come on, come on. Come on, come on. We'll be right back.

Mondo Radio Centro Italia. We'll be right back. I'm excited. The house of God. Isn't that powerful? Thank you. Your Chart 2245, Alessandro di Tor Tre Teste ha preso la Your Chart. Saluta Pompierino, Tatiana, Marco di Acile. Il disco che ha chiesto è Psycho Dream, che fa parte dell'album Spectrum di Sandro Galli. Alessandro di Tor Tre Teste la Your Chart 2245. Chart della metà classifica. Allora, il disco The Mover, Frontal Sickness, parte 1, l'ha chiesto Alessandro di Tor Tre Teste, che saluta Pompierino della Montagnola, Francesca, che lo sa, Simone e i fratelli Pittaccio, Luca della serie Noi Non Ci Fermiamo Mai. Va bene, Alessandro di Tor Tre Teste ha chiesto The Mover, Frontal Sickness, parte 1. We'll be right back. Grande evento per festeggiare i 3 anni di Virus, The Big Party, il grande evento internazionale.